come i lasciai. Volete dunque aprire voi stessa? Oddeggio! Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete che pace di mancare al dovere? Come vi piace? Entro nel gabinetto, ive chiuso vedrò. Sì, lo potrete, ma uditemi tranquillo. Non è dunque Susanna? No, ma invece un oggetto che raggio di sospetto non vedevi lasciar. Per questa sera una burla inagente di farsi disponeva, ed io vi giuro che l'onor lo destò. E dunque, dite, ucciderò. Sentite! Ah, non ho cor. Parlate! È un fanciullo. Un fanciul? Sì, che rapino. E mi farà il destino ritrovar questo paggio in ogni loco. Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Onde m'avverte il folio?